dovuta anticipa cos'è? Sì, no, ce ne sono qua, perché hanno fatto sul sinistra il record del Bayern, insomma. Perché il distruggimento è un record. Sì, ma poi qui c'è la interruzione, perché c'è l'agitazione, secondo me. Penso che ci siamo quasi, vero? Sì, io insomma incomincio a dire qui su transizione di fase che il laboratorio Coessenza questa sera si è riunito per parlare dell'azzurro e siamo qui al centro De Luca, a Cosenza, vecchio, chi magari è all'ascolto e volesse venire può ancora farlo, insomma. Quando volete, insomma, io vi cedo il microfono e non parlo più, lo prometto. E questo comunque funge anche da prova microfono, pare che vada tutto bene. E, intanto c'è Anna, che è ormai insomma una nostra affezionata, che ci ha mandato le sue riflessioni sul turchese. Questo lo dico a tutti, così lo sapete. Un salutone ad Anna, dicono dalla sala, tutti dicono ciao Anna, perché insomma è davvero una affezionata del laboratorio e questo ci fa piacere. E sembra che vogliamo iniziare. Io porto il microfono nel centro, chi poi ha voglia, insomma, lo piglia e ciao, insomma. Siamo un cerchio e nel cerchio siamo tutti essenziali, perché siamo tutti diversi. Carlone che ha scaricato la posta da Vatumi, tu sapevi? No, Carlone lo sapeva ma non ce l'ha fatta a venire. Manuela non lo so, non l'ho sentito. Insomma, iniziamo questo laboratorio di maggio. Io non lo so perché, ma oggi sono energeticamente a terra. Il mese della Madonna, veramente secondo la numerologia è il mese della libertà sessuale, perché è il numero 5 al centro del percorso, è il colore appunto del 5, il turchese, perciò il laboratorio... non ci si sposa a maggio, ci si sposa a giugno, che è il numero 6, il mese della famiglia, quindi è di buon auspicio sposarsi nei giorni 6, nei mesi 6, con la ricorrenza. Siamo nel pieno dell'esplosione a maggio. E il turchese il colore è un colore che si mischia, no? Tra il blu e il verde, e viene fuori questo miscuglio. Io mi sono messa la pietra turchese e c'ho sempre questa collinina protettrice, perché la pietra turchese è per la guarigione, quindi è di buon auspicio. E poi ho portato qualche verso. E poi facciamo un giro, se no è stancante. Volevo leggere una poesia che è sul sito della Coessenza, che è Bad Memories, che è una poesia che ho scritto guardando dalla finestra di Fort St. Elmo a Malta quando lavoravo là. Quindi il mare era veramente una distesa turchese. Arrivate Ernesto. No, puoi parlare. È finto il microfono, non è vero. Ce l'abbiamo. Dall'alto di un forte antico, che navi, soldati e bombe vide e visse in sé, circondato da un mare amico, si spegne l'umana dignità tra i volti affranti di chi fugge e arriva col cuore in gola dopo il deserto ed un vascello alla deriva. Non è una vita tra le macerie di colonne stuprate e abbandonate. Non è una vita tra lo splendore di terre falsamente dorate. È un fascicolo, un numero ad imprigionare l'umana viltà. Viaggia la merce, il petrolio e il capitale, ma non l'essere umano di un mondo non lontano. Via, sporco immigrato dalla pelle nera. Via, lurido ladro del mio pane bianco. La mia ingordigia vale più della tua fame. La mia schiavitù rende sogno la tua libertà nel mio reame. Dall'alto di un forte antico ammiro brillare il mare amico. Amico mio, vogliosa donna occidentale, nemico tuo, occhi tristi di fughe obbligate, pulsanti di volti e corpi annegati. Bad memories. Io. Bad memories significa cattivi ricordi. Questa è la scena che io ho vissuto, ho lavorato a Malta, ho fatto uno stage alla Refugee Commission e assistevo a queste scandalose interviste che fanno ai richiedenti asilo. E poi in una pausa di questa intervista, che c'era questa ragazza che stavano intervistando, era affacciata e guardava questa distesa meravigliosa, il mare là, siamo in un'isola in mezzo al mare. E poi io ho visto il mare, allora per fare la toga, per farmi dire, hai visto che è bello il mare? E lei mi ha guardato negli occhi e mi ha detto bad memories. Ci ho scritto una poesia. Partito un ricordo sul turchese, che è un ricordo molto, come dire, recente in realtà, che è il colore di mia sorella, che praticamente ci ha ossessionato per anni, almeno sicuramente dal 2000 al 2005, sono abbastanza sicuro, ma proprio un'ossessione, cioè la casa era piena di oggetti, che ancora ci sono in parte, ovviamente lei non, adesso si è sposata, c'ha la sua casa, però anche quando entro nella sua stanza ancora c'è pieno di sta roba e mi ero un po' ripromesso di riuscire a passare da casa di mamma per immergermi lì, però non ho proprio avuto il tempo, però continuavo pure oggi pomeriggio mentre andavo a San Filo a pensare a sta cosa che è il colore di mia sorella, o comunque che mi riporta automaticamente a lei, al suo mondo, alle sue non lo so. Però c'era stata questa cosa e poi noi il compleanno arrivavano i regali e tutti le regalavano la sciarpa, la cosa, ma veramente in maniera eccessiva. Non so, vedevo anche la sua maglietta. vabbè. E quindi, però, insomma, non ho avuto proprio tempo poi di... Che l'idea era quella di andare lì e provare a vedere se gli oggetti mi restituivano un po' di... Però non ho avuto proprio tempo. Poco. Che vi leggo, guarda. Un'altra poesia di Malta, sul mare. Malta ho cominciato a scrivere versi. Mi ha ispirato l'isola, forse. Racchiuso da un semicerchio di terra e di roccia, l'infinito sussurra la sosta, inneggia il pensiero, profana la corsa. Profumi levati dal vento, ristoro tra i raggi del sole, sapore dell'acqua salata, e un corpo abbandonato tra le onde rilascia il veleno dell'epoca del troppo, persi in un canto alla vita ave natura. Tu mi avevi detto di portarlo? Se voi se siete d'accordo, a me ultimamente ho letto due reportage da... Ultimamente ho letto una rivista e un libro, un reportage dall'America di quel fenomeno di Occupy Wall Street, che mi interessava moltissimo, perché effettivamente io l'ho visto e lo vedo ancora veramente come l'assalto al cielo, perché lì Wall Street significa il potere mondiale, sono quelle che distruggono e risuscitano nazioni intere, insomma hanno una forza e un potere formidabile. Questi ragazzi che l'hanno occupato è veramente... almeno da un punto di vista simbolico, una cosa formidabile, insomma. Non so che conseguenze può avere. Però ci sono queste... praticamente uno è un giornalista di Repubblica e un altro sono dei vecchi compagni miei, di vecchi bordighisti, che fanno una rivista formidabile, N+1, non so se l'avete... E entrambi sono andati, ognuno per fatti suoi, poi si sono incontrati, e infatti questo libro di questo giornalista di Repubblica parla anche di questi incontri, di questa rivista, che lui dice che è una rivista culturale, invece è una rivista fortemente politica, insomma. Comunque, ma a parte questo, no? Io questa è una Repubblica dell'agosto 2010, che ha fatto ed è Federico Rampini, conoscete Rampini, che è un giornalista bravissimo, che ha partecipato a un congresso, una manifestazione del movimento che è precedente a Occupy Wall Street. Sono dei movimenti praticamente questi. Ecco, io mo vi leggo alcune cose per farvi entrare un po' nella logica, perché quello che vi voglio leggere poi sono le regole che questi, ve l'accennavo l'altra volta, sono le regole che questi si sono date per come regolare le loro assemblee. E a me mi hanno colpito moltissimo, perché poi li paragonavo alle nostre riunioni, alle nostre assemblee, non le nostre, quelle di coessenza, che già coessenza è assolutamente diversa di tutte le manifestazioni a cui ho partecipato a manifestazioni. C'ho una bella esperienza da questo punto di vista, a cominciare da Montonuovo, a finire agli ultimi dei No Global. Non so se qualcuno di voi ha mai partecipato alle molte riunioni che abbiamo fatto su quando c'è stato su Movimento No Globo. Tu ci sei stato in diverse di queste. Vi assicuro c'è una differenza, no? Ci sono 100 anni di differenza proprio di cultura e di evoluzione della cultura, che si sono formidabile, insomma, parliamone chiaro, su avanti a noi di 100 anni, insomma. Questo che mi ha colpito moltissimo, e perciò vi voglio leggere per vedere se anche voi notate la differenza. Va bene? Allora, come preambolo, vi voglio prima far vedere chi sono questi qui, no? Un movimento che per la sua presa tra le nuove generazioni ha contribuito a far eleggere Barack Obama nel novembre del 2008 e che oggi non esita a criticare il presidente se tradisce le promesse di cambiamento. Nato 12 anni fa, quindi il 1980, questo è il giornale è del 2010, quindi 12 anni fa è del 1988 che è nato il suo movimento. 98. 12 anni. Dal 2010? 98, sì. 98, giusto. 1998. Dice, è un miracolo secondo Coso, no? Lui praticamente ha partecipato a una riunione che hanno fatto in un weekend per discutere, mo vi dico che cosa. Istruirsi per vedere come agire politicamente. Lui la definisce una frattocchia americana. La frattocchia era la scuola di partito del Partito Comunista, dove i giovani andavano a formarsi. E quindi loro è una scuola che fanno per... vabbè, poi salto. Nel primo decennio della sua vita, MoveOn, così si chiama il suo movimento, ha fatto grandi battaglie contro George Bush e le sue guerre, per conquistare leggi ambientali più avanzate o il diritto all'assistenza sanitaria per tutti. Ecco perché poco fa accennava al fatto che sono alla porta... in porto sta iniziativa, loro gli toglieranno l'appoggio, insomma. Sempre usando internet, tutto questo lavoro fino a questo momento lo hanno fatto con collegamenti internet. È una forza politica figlia delle nuove tecnologie di cui ha fatto un utilizzo magistrale. Come ricorda il suo coordinatore Ilse Howe, MoveOn è davvero controllato dai suoi membri, come nessun partito o movimento lo è mai stato nella storia. Ogni settimana fa un sondaggio tra gli iscritti e il sondaggio decide le campagne da fare, il tutto deciso da basso. E dietro MoveOn non c'è ovviamente un padrone, ma neppure un'ideologia. Questo è un altro fatto formidabile. Non c'è un padrone, ma neppure un'ideologia, con la I maiuscola. Solo un insieme di valori condivisi come l'ambiente, l'equità sociale e il pacifismo. Quindi due, tre elementi di sinistra veramente, cioè non avranno ideologia, però pensate... L'ambiente, l'equità sociale, che significa comunismo per altri versi, è un altro modo, giustamente compagni miei che vi dicevano, a parola comunismo non avevano manco sentito parlare, perché dice che è così sputtanato ormai, che non si capisce, per cui parlare di equità sociale è molto più efficace che parlare di comunismo, insomma. E pacifismo, che è un'altra cosa che, insomma, poi questo potrebbe essere un capitolo a parte di cui discutere noi, perché questi qui vogliono fare la rivoluzione e farla pacificamente, che sembrerebbe un ossimoro, una contraddizione in termini. Però, personalmente, che da 100 anni che aspetta la rivoluzione, il mio partito aspetta da 100 anni la rivoluzione e l'aspetta con un fideismo formidabile. Io qualche dubbio ce l'ho, per cui sentir parlare di pacifismo e fare la rivoluzione con l'arma del pacifismo, insomma, è una cosa che a me personalmente mi fa pensare molto, quantomeno non mi scandalizza. Sono perplesso perché mi rendo conto che sovverte tutta una cultura, non so se mi spiego, però ha le sue, si può argomentare la cosa, è una cosa da discutere secondo me, non, ripeto, non mi, personalmente non mi scandalizza. Ma ora anche Movion esplora una nuova dimensione. Per la prima volta costruisce anche un'organizzazione territoriale presente in tutte le grandi città americane. Ecco, questo è il motivo per cui si stanno riunendo, per cui hanno fatto queste riunioni, queste cose. È perché si sono accorte, e dopo lo specifica meglio, no? Si sono accorte che non basta il collegamento in rete, che c'è bisogno di vedersi fisicamente. Mo lo dice meglio lui dopo. Per la prima volta costruisce anche un'organizzazione territoriale presente in tutte le grandi città d'America. Conserva una struttura agilissima, solo 300 dipendenti a tempo pieno. E questi ricogliano soldi con internet. Hanno fatto già la campagna. Anche con i soldi che sono riusciti a raccogliere. Voi sapete, che le elezioni americane si fanno con i soldi, insomma, se non hai soldi non ne fai elezioni. Beh, allora non sono riuscito a raccogliere un sacco di soldi, però malgrado questo, ripeto, conservano una struttura agilissima, solo 300 dipendenti a tempo pieno e una dozzina di consulenti esterni per le tecnologie. Continua a comunicare online con 15 milioni di membri, ma adesso ha anche 110 consigli territoriali, 25.000 militanti che si incontrano in luoghi fisici. La ragione, spiega uno dei fondatori, Eli Pariser, è che vogliamo poter incalzare i nostri politici anche nei loro collegi elettorali davanti ai loro uffici. E a destra il Tea Party, sapete cos'è il Tea Party? È una destra allucinante proprio, in confronto, ecco, io mi faceva pensare, noi dicono che noi siamo molti cattolici e religiosi perché abbiamo il papato in casa, insomma. Non è vero, loro non hanno il papato in casa, ma i circoli di destra cattolici, loro, sono di un radicalismo e di una cosa che di fronte alla quale i nostri sono progressisti, insomma, malgrado noi abbiamo il papato. Loro sono terribili, il Tea Party è una cosa allucinante, insomma. Allora, e a destra il Tea Party, che ha molti meno seguaci di noi, ci insegna che occupando le piazze con poche migliaia di manifestanti si finisce su tutti i telegiornali. Cioè, mentre loro veramente un partito numerosissimo, 51 milioni di iscritti e quindi collegati in rete ancora di più, non sono efficaci come sono quelli del Tea Party, che sono poche migliaia, insomma, perché siccome fanno manifestazione di piazza, poi ne parla tutta l'America, ne parla tutta la stampa e tutte le cose. Ecco perché hanno deciso di fare in ogni città importante una sezione, di organizzarsi territorialmente e fisicamente. Da qui poi il coso che vi dicevo, che leggerò subito dopo. All'insegna della democrazia dal basso, la giornata comincia con un sondaggio fra di noi. Sta parlando adesso di quello che hanno fatto in questo weekend, insomma. Quale regole del gioco vogliamo? Ci alterniamo alla lavagna ed emergono i comandamenti che noi stessi ci diciamo. E questi sono i comandamenti. Sentite quanto sono belle queste cose che... Obbligatore gli interventi brevi. Chi prende la parola non parli più di 3 minuti. Vietato alzare la voce. Dopo fate il paragone con quello che facciamo noi. Proprio diametralmente opposto. Vietato farli meno di 30 minuti. Vietato farli a voce bassa. Vai. Allora, vietato alzare la voce. Prestare attenzione al proprio interlocutore anche quando non si è d'accordo. E noi invece facciamo la stessa. Quando uno non siamo d'accordo, lo aggrediamo letteralmente. Io perlomeno questa l'esperienza di 50 anni di riunione è questa. Sì. Attenersi al tema, non divagare. Aiutare chi ha difficoltà a parlare in pubblico, rivolgersi a tutti, non solo a chi la pensa già come noi, rispetto per l'interlocutore, guardarsi negli occhi, non interrompere. Poche parole, ma vi assicuro che io ripeto, 50 anni di milizia, di circoli, di gruppi, di club, proprio l'esatto opposto di quelle che ho fatto in tanti anni. Non ultimo, gli ultimi che abbiamo fatto quelli dei no global. Un'altra cosa che qui non dice, ma ve lo dico io, l'ho letto, non hanno capi, quello del libro di cui vi parlavo, no? Che siccome doveva poi fare la corrispondenza a Repubblica, cercava di parlare con qualcuno. Naturalmente ha individuato il più importante, perché può, malgrado la mancanza di capi, malgrado la cosa, può, le cose, ci sono i bravi e ci sono i meno bravi. Queste le ha individuate come brave e li voleva parlare con l'attitudine di chi che parla al capo e chiede che tutti che si rifiutavano, noi a capo non avevamo, no, cioè questi rifiutano e non hanno capi. Roba che hanno, quando per esempio i no global, in genere c'erano gruppi, c'erano i gruppi anarchici, c'era Ciroma, c'era Chiro dell'Università, Gaudio, tutti i capetti. Ognuno che parlava a interferire, insomma vi assicuro una cosa, è tutto l'opposto di quello che hanno detto questi. E questo mi dimostra l'abisso che ci separa da ecco perché ci tenevo a dirvelo, soprattutto per questo motivo, come siamo arretrati noi rispetto a questi movimenti. Assertiva, cioè nell'ambito della comunicazione si studia la comunicazione assertiva, che è il metodo per comunicare e farti intendere dall'altro, e sono queste, non parlare ad alta voce, quindi non è che sono state inventate loro, ci sono degli studi dietro. Nella comunicazione assertiva sono un fatto soggettivo, lì sono esperienze e vabbè, ma alla fine è la stessa cosa, però. Questi si sono riuniti e hanno stabilito questo. Si sono parlate fuori dalla comunicazione e soprattutto in realtà se uno va in un congresso di partito o in un'assemblea di sedicenti movimenti di sinistra anche lì si ha la sensazione che tutti rispettino questo tipo di regole. C'è un'eccezione però, nessuno ti ascolta. Cioè anche lì c'è un moderatore, però l'ascolto è zero. Provateci. È una situazione scolastica, è vero? sì. No, si fanno pure, questi sono proprio scuola americana. Ma una scuola, cioè... Un partito. Dicevano che c'erano di tutte le età, c'erano pure pensionati, c'erano studenti, c'erano pensionati, casalinghe, tutto. È il movimento che poi ha portato alla vittoria di Obama, che anche quella è una rivoluzione. In America un negro che fa un presidente degli Stati Uniti è una rivoluzione, capito? Allora, io ho fatto un po' un'associazione quando sul turchese, nel senso che, grazie, mi mette ansia, nel senso che ho pensato subito all'emotività, in realtà, quando ho pensato al turchese, e quindi in realtà è un racconto, è una prima stesura di un racconto che è un delirio emotivo, sostanzialmente, quindi lo condivido ed è la prima volta che lo leggo in pubblico. Già chi mi conosce da più tempo sa che mi metto un pochettino, mi treme la voce o altro. Qui ho molto, molto, molto, molto timore, però ci proviamo. La versione di lei. 1. Rileggersi non fa bene. Il posacenere accanto al computer si era riempito di un'altra cicca. Le sue dita avevano assorbito fumo e rilasciavano odore acre come pelle di vecchia. Capelli raccolti tenuti a fatica da un elastico trovato in fondo al cassetto, sfilacciato e liso e nero. Ai piedi dei calzettoni di lana grigia, piena di pallini, alito di amaro. La bottiglietta era lì, vuota, accanto al posacenere fumante che ancora non era riuscito a capire come spegnere al meglio una sigaretta per quanto fumasse da anni. Il cursore dettava il tempo della notte. Leggere vecchie conversazioni le aveva dato il senso della propria distrazione. Curva per il freddo, continuava a scorrere vecchie chat e a rileggersi, e non riusciva a ricordare nulla. Lui le aveva detto varie volte in passato cosa fossero. C'erano lì, sullo schermo, parole come pungenti e precise, che sapevano etichettare qualcosa che ancora non aveva focalizzato, che forse non avrebbe mai del tutto compreso. Era sempre stato un problema di costellazione semantica. Parole come emotività e coppia e innamoramento avevano su di lei un effetto simile alle parolacce che sentiva e registrava da bambina. Parole dal suono accattivante e bello, ma totalmente privo di significato. Per una strana ragione stava in superficie e non comprendeva e non registrava e non riconosceva come attribuibili a sé quei suoni, come una melodia insulsa e disarmonica, come la musica techno che tanto odiava. Rileggersi non fa bene, perché quella rilettura dava il senso della scarsa conoscenza di sé e del proprio stomaco. Stava sfogliando dei quaderni, su cui frasi appuntate in anni le si mostravano inedite, lucide e ricorrenti. La malinconia ha un odore simile al tabacco e al liquore, ha un sapore simile alle lacrime mai mostrate e coltivate in solitudine. La malinconia ha il peso delle immagini prodotte dalla sua testa stanca e che vedono il corpo di lui immerso in umore di altre donne, dai capelli sempre più lucidi, sempre più odorosi. Lo immaginava sfiancato dall'ultimo incontro, lo immaginava fra lenzuola di carne e sudore, lo immaginava bisbigliare quelle frasi, sempre quelle. La malinconia è nel suolo di quelle frasi che sapeva non essere esclusive. Guardava le mani screpolate, le sue dita contratte nello sforzo di non comporre un numero, una frase, uno squillo e lo stupore e la voglia disattesa di vedere sullo schermo un nome, quello di lui. Qual è la versione di lui? Perché la voglia di quel nome? Perché lo sforzo di non pronunciarlo quel nome? Perché la paura di vedere in quegli occhi una luce nuova? Edo è ancora lì, la voce. Sì, è di là in camera con Chloe. Se sei per strada, vieni qui. Mesi fa l'idea di avere quella voce fra le lenzuola l'avrebbe resa una bimbetta stupida. Ora quell'invito era stanco, perché fra quelle lenzuola voleva lui. Dopo 15 minuti la voce era lì. Edo e Chloe e lei in cucina, nella tazzina di vetro del liquore, fra le dita un'altra sigaretta. La voce era lì, ma lei non riusciva più ad ascoltare. Non c'era più alcuna risonanza, come se i loro corpi fossero ormai strani e freddi. 2. Devi frenare. Mangia chicchi di melograno freddo, sposta le ciocche di capelli al lato inclinando il capo, mostra il collo e vede lui avvicinarsi. Ha un cappello nero, le mani dietro la schiena. Ciondola mentre lei è seduta sul letto di stoffa blu. Sono accanto ad una fabbrica, il letto sull'asfalto, il collo inclinato e gli occhi a fessura. Lui si avvicina. Destra o sinistra? Sinistra. La mano scelta si apre. È un pezzo di lei. Che cos'è? Tesoro, guardati fra le gambe. E fra le gambe, lui sorride. Lei ha un vuoto fra le gambe. Quel vuoto lo è lui in mano. Alza gli occhi e lo vede e lo ascolta. Devi frenare, le dice. Cosa? Cosa devo frenare? Vuoi vedere cosa c'è nella destra? Non c'era bisogno di vedere. Lei sapeva cosa fosse. Nella destra un pezzo di lui. Lui cercava di incastrare i due pezzi e di farle vedere come funzionasse il meccanismo. Lei lo guardava mangiando chicchi di melograno freddo, schiacciando sul palato il frutto. Il succo giù per il mento, sapore acidulo e acquoso e occhi chiusi. Lei non voleva vedere, voleva mangiare il frutto e non vedere i pezzi. Perché non guardi? La stoffa era sporca, non più blu ma grigia come l'asfalto. Fammi da coperta, lei riuscì a dire. Devi frenare, la risposta. Cosa, cosa devo frenare? 3. La versione di lei. Quando ricordi è ciò che registra è sempre così terribilmente soggettivo da risultare distorto. Questa è la versione di lei. Distorta come plastica incisa, come quando con la fiamma comincia a giocare con la plastica per creare forme. E la forma di lei è così incerta e mutevole, così morbida come pelle frizionata da olio di mandorle dolci. Al risveglio sento odore di umido, la bocca secca e in fondo alla gola sapore di tabacco e amaro. Cos'è quella sensazione che come intrusa viola il risveglio, viola le sue notti? Cos'è quella sensazione che ha un volto e un nome? La luce attraversa le tende bianche sottili. Sa che il cielo non è limpido e l'aria fredda. Ferro che stride su rotaie. La linea del 16 passa sotto la sua stanza e lei vorrebbe che la vedessero da quei finestrini. Teste stanche che se solo sollevassero lo sguardo la vedrebbero dietro i vetri, nuda. A risveglio è un meccanismo lento che si solleva perché deve. La soluzione è una biblioteca in centro dove ha conosciuto un tipo alto e biondo. Ha voglia di chiamarlo perché hanno parlato e le ha sorriso e fra gli scaffali il primo contatto. Lui la guarderà di nuovo, le offrirà un altro caffè e lei si vestirà di una nuova versione, di una nuova storia. Il tipo aveva una felpa grigia e un piercing sul sopracciglio. Avevano parlato sulla panchina verde del cortile con una tazza di caffè sintetico in mano. La guardava negli occhi. Mi hai sorriso e ho pensato che è stata una cosa carina e volevo sapere chi eri. Aveva detto con un tono diretto e giusto, gli occhi azzurri erano trasparenti. Voleva vedere di nuovo quegli occhi e credere che fossero una soluzione. Quale versione sarebbe stata lei? La ripetizione di sé era un incantamento, come il percorso circolare del 16. Decide di riposare il meccanismo che si è inceppato e di scegliere la stoffa verde del suo letto. Ha gli occhi chiusi ancora un po' e le versioni di lei le appaiono. La versione di lei che sta ferma o che è in movimento, quella che preferisce i capelli lunghi sul collo, i tacchi e lo smalto e le foto nude e il rossetto e una mano che le stringe il seno e l'accarezza il volto e la tocca e le bisbiglia frasi che le fanno arricciare il naso. Quella di lei che vorrebbe un cuore in mano e una lingua sulla schiena, capelli corti, il fiato mozzato e il sapore di sale e l'acqua in gola e il respiro che sa di umido e la saliva sul labbro. Pensa alla versione di lei mentre accarezza il ventre, poi le dita a toccare l'umido, è il collo che si contorce, il respiro che diventa ritmo e la carezza che diventa lui, che non ha volto, non ha nome, che collassa i ricordi soggettivi e distorti e distratti. Tocca l'umido e apre gli occhi, e non c'è alcun lui. Okay. Sì, io faccio l'antenna umana e abbiamo una connessione, vabbè, un po'. Salutiamo ancora Anna che ci ha risposto e ricambia i saluti. Quindi io direi che è giunto il momento di leggere le riflessioni di Anna sul turchese. Io spero di leggerle bene, non lo so. Come l'essenza di quest'aria. Turchese come il fumo sottile delle mie sigarette che si espande nell'aria. Turchese di questo giorno di quasi primavera, non ancora compiuta, non ancora totale, ma intuibile nei suoi odori di maggio, nella sua presenza assenza, Niente sarà mai presente come una fulgida e turchese assenza, come una risata, la tua, ancora una volta, che vibra nell'anima. Turchese come la pioggia di aprile, quasi evanescente. Turchese come un paio di jeans che ho messo via. Non li indosso più, mi vanno grandi. È sempre difficile per me mettere mano nei miei cassetti, nell'armadio. Ogni foglio, libro, oggetto, indumento ha un valore quasi esclusivamente metaforico. Ogni cosa rimanda a qualcos'altro. Ma ho deciso di non essere più feticista. Jeans abbandonati, al loro silenzio. Nella vita si ingrassa, si dimagrisce, e ciò che una volta ti stringeva in un metaforico e forse illusorio abbraccio, come il tempo, allenta la sua presa. No, niente ha il diritto all'oblio, è solo che il tempo rende le cose più distanti, come vissute in un sogno. Turchese. Turchese come la piacevole nostalgia che assaporo in tutte le sue declinazioni. La nostalgia è strana, non è immediata, è con lo scorrere dei giorni che si palesa, mostrando tutto il suo romantico potere. È come quando smetti di fumare. Io ci ho provato tante volte senza mai riuscirci. L'astinenza ai primi giorni è sopportabile, esplode in seguito. Sono dipendente dalla malinconia, non posso fare a meno della sua essenza. Come una tossica, non vago sulle strade alla ricerca di una dose. Non morirò di overdose e non mi cadranno i denti, ma un sottile veleno si insinua nelle vene, turchesi. Non lascia segno lividi sulla pelle. Ma c'è, scorre, mescolandosi al mio sangue, toccando le corde più nascoste della mia anima, della mia depravata sensibilità. Turchese come il sereno silenzio che mi avvolge, riesco ad amarlo, ad apprezzarlo, senza averne paura, senza avere il bisogno spasmodico di riempirlo con un qualsiasi suono. Non è una condizione esistenziale, né il luogo dove si annidano le mie paure, ma un momento turchese di totale assenza di rumore. Sì, il silenzio è turchese per me, come l'essenza di questo momento attraversato da tutti i miei amori, splendenti e oscuri, deliranti e sereni, passionali e teneri, così diversi, così uguali, accomunati in quest'oggi di quasi primavera da un unico colore, il turchese di quest'aria. E ricordo che questo era lo scritto di Anna. Dopo, secondo me non è bello sentire sempre la mia voce, voglio leggere, no? Soprattutto stasera che mi impingeva proprio, non so che cosa, la bocca tutta impastata, ma... dopo magari leggo qualcosa. Questo è un microfono. No, io c'ho una cosa che non c'entra niente col turchese, però non so se... No, non lo so, c'entra con... È una, come si può dire, un outtake dei racconti sugli anni Ottanta, insomma, questa cosa che aleggia nell'aria. Un, come si dice, outtake, un preso fuori, una cosa che è rimasta fuori, un frammento che poteva entrare nel racconto ma poi non c'è entrato, perché, insomma, si chiama Abbandonare il tifo, non è un racconto, è un appunto. Lui continuava a passarmi davanti con la sua bicicletta. Io seduto a terra macinavo pensieri cattivi. Poi improvviso scatto, afferro una piccola pietra, lancio, colpito in pieno, fronte sanguinante del mio migliore amico. Senso di colpa gigante, il mio. Non ho mai capito perché non mi ha massacrato dopo. Eppure era più grosso di me, con i muscoli già delineati. Si toccava la fronte insanguinata. Siamo andati insieme verso la fontana. Insieme. Nessuna parola più. Nessun accenno più alle squadre di calcio, alle quantità di scudetti, ai calciatori migliori. Nessun riferimento ai colori sociali, agli arbitri venduti, comprati o solo cornuti. Dopo quella sospensione dell'amicizia, eravamo tornati normali. Un gesto violento, insensato o pienamente colmo. Avere 11 anni e parlare per sentito dire di motori, pallone, donne. Non litigavamo mai. Io buono, calmo, quello con gli occhiali. Lui selvaggio, cattivo, quello con i capelli lunghi. Ci siamo salvati tante volte, coperti con bugie semplici. Il futuro non sapevamo cosa fosse. Non ci apparteneva l'idea di del domani. Biciclette, camminate, corse, poi giochi proibiti con le amiche bambine, case segrete, vecchi fienili, camere buie, brevi amori, baci rubati. La scuola non era un problema, studenti automatici, non eravamo asini, non eravamo secchioni. I pomeriggi erano la nostra fortuna. Bello questo frammento degli anni Ottanta, mi ci ritrovo e quindi mi hai dato un po' la forza di prendere il microfono in mano, perché anch'io non ho avuto tempo di preparare, poi appena ho visto comunque l'altro giorno la pietra turchesa, bam, un flash, un ricordo di quando da bambino, appunto a 11 anni, rompavamo quelle delle pietre di sale in sila che poi serviva da mischiare, che veniva dato nei campi sul grano. Adesso forse Franco, che magari c'è qualche anno in più, una pietra turchina che si usava per una sorta di protezione per le colture, era il zolfo, era sì, probabilmente sì, sicuramente. Allora ecco, questo è il mio primo ricordo, che è turchese come colore, questo è il mio primo ricordo appunto del turchese, eh? Come dice? Era una sola rame forse allora, sì, erano delle pietre di rame forse, sì, di sale di rame saranno state, eh? Che veniva dato, cioè noi da bambini ci davano un martello in mano a rompere queste pietre che poi venivano dati sui campi a protezione di non so quale cultura, insomma. Questo è il mio primo ricordo. Il secondo ricordo invece, qualche anno un pochino più dopo, è una bicicletta, una Legnano 16, di quello stesso colore, che mi ha accompagnato insomma per i primi anni insomma dell'adolescenza, quando appunto, come diceva questo tuo recitare di prima, ci si andava insomma un po' a imboscare insomma con le amichette del quartiere eccetera, con le biciclette, che insomma noi andavamo con le biciclette a fare queste scampagnate dove poi ci si perdeva fra i mille giochi appunto che ci inventavamo noi, insomma, quando appunto non esisteva internet, non esistevano i telefonini, esisteva appunto quel sole fortissimo e dei ricordi appunto di colori vivi, come appunto la bicicletta turchese, questa pietra che abbiamo scoperto che è turchino, non lo so che cavolo è, andrò ad andare a controllare comunque in qualche libro di agraria, insomma. Con i potenti mezzi, ecco, di internet, adesso subito vediamo. Ma fammi il fascino. Sì, ok, però non era questa pietra, questa non era, quella era una sorta di sale che veniva frantumato da noi, capito? No, il colore sì, il colore era questo. Ok, ci siamo. È il ramato, una pietra di ramo, va bene. E appunto questi, vi ho voluto, insomma, condividere. Ho voluto condividere, sì, ho voluto condividere queste. Cioè, con il martello... Riducevamo in polvere questa pietra, insomma. Sarà una sorta di conglomerato di sale di rame, allora, sì, sicuramente. Insomma, ho voluto condividere questi miei ricordi. E comunque, vabbè, giusto un inciso su, ma niente, volevo su quella parentesi politica, insomma, sugli Stati Uniti. Evitiamo, insomma, cioè, nelle mille contraddizioni dell'America... che c'è stata tante sfaccettature all'America, c'è sempre stato un afflato libertario di uguaglianza sempre molto forte, comunque almeno negli strati bassi della popolazione, ecco, che è un po' è stato anche il cemento di quella nazione. Poi Franco non è filo americano, anzi no, no, a proposito di amore e psiche, di emotività e psiche, io vi leggo il frammento di una cosa che ho scritto, di cui ho già letto un paio di anni fa all'Acquario un altro pezzetto. Ogni tanto mi fermo, poi riesco a ripartire. anche se appunto è un frammento, provo a leggere di quello che potrebbe diventare un romanzo, però non la dico sta parola che mi fa paura, perché partiva col calcio, però visto. Sì, il calcio c'è sempre, però questa è l'unica parentesi da insegnante, per questo vi leggo questa, che meno se magari voi piace più questa insomma che quella da ultras, perché c'è tutta una letteratura sugli ultras. In realtà il romanzo poi fa dei flashback sul mondo ultras, però parla della città in cui viviamo noi oggi, non della città dei primi anni zero, della cosenza del post-mancinismo o del mancinismo, la meravigliosa cosenza delle invasioni, del post-Gramna, della piazza, ma la cosenza del declino, insomma, per dirla chiaramente, che è la cosenza in cui viviamo noi oggi. E mi viene voglia di mordere il parabrezza. In viaggio da solo tutto mi appare meno semplice e più chiaro al tempo stesso. Col passare degli anni la mia macchina si è svuotata. I colleghi precari che in passato facevano i pendolari insieme a me adesso rimangono a casa, tagliati dalle infinite riforme scolastiche. Devo farmene una ragione. A una compagnia triste preferisco una solitudine allegra. Così almeno ho il tempo di elaborare. Nel tratto cosentino l'autostrada sembra ultimata, ma in realtà lo è soltanto per i fessi. A causa dei materiali scadenti che le imprese in subappalto hanno impiegato per ammodernarla, la 3 balbetta un limite di velocità a 80 km orari, per la gioia dei poliziotti della stradale che piazzano quella agli autovelox a tradimento e fermano ogni giorno arrapanti automobiliste, inscenando posti di blocco tanto acrobatici quanto pericolosi. Alt! Ormai deve esserci una parte del mio cervello sintonizzata con le apparecchiature di controllo dello Stato. Ogni volta che penso a loro, quelli si materializzano. Più che un posto di blocco è una dogana. Su questa strada li becco sempre. Oltre alle belle donne, fermano pure facce strane come la mia. Giovane, basso, baffuto e incazzoso, il carabiniere mi chiede i documenti. Gli porgo patente e libretto, mi ordina perentorio di scendere dalla macchina. Alzati le maniche. Scusi, ma non capisco. Porta i dorsi delle mani sui fianchi, si inarca con aria da nazista, mentre i suoi colleghi si dispongono a semicerchio, osservandomi come se avessi la lebbra. Alzati le maniche, ho detto. Non ci sono altre macchine in vista. Intorno a questo svincolo solitario, insieme a me, gli unici esseri viventi sono codesto scoppiato in divisa e i suoi due uomini, fra virgolette, che frattanto stanno già provvedendo a rovistarmi il cofano. Niente testimoni in giro, meglio assecondarlo. Sollevo le maniche del giubbotto con gesto felpato. Lui scruta le mie braccia. Poi sputa le domandine magiche. Fai uso di sostanze stupefacenti. Trasporti armi. Brigadier, andare a scuola con una pistola oppure drogato, sarei più strano di quello che sembro. Gli spunta un'espressione di stupore sul volto. A scuola? E tu cosa ci vai a fare a scuola? In quel preciso istante l'ha puntato svuota sul cofano il contenuto della mia vecchia cartella verde in pelle. Spicca il rosso del registro personale dell'insegnante. Me lo porto sempre dietro. Temo che durante una delle ricorrenti irruzioni notturne a scuola, a colpi di estintore o creolina, finisca distrutto. Peggio ancora sarebbe se i ragazzi me lo lasciassero a posto in segno di rispetto, come già una volta hanno fatto. Sui registri dei colleghi si sono scatenati, orinandoci sopra. Il mio invece è rimasto intatto. Che imbarazzo. Come quello che vedo affiorare sulla faccia del brigadiere mentre gli indico il mio registro sussurrando «Sono un insegnante». Rimane per pochi secondi con la bocca spalancata, si rende conto di avere oltrepassato una certa soglia. Da buon carabiniere di paese, sa che il mondo gira. Prima o poi potremmo ritrovarci, potrei essere l'insegnante di suo figlio o di un nipote. Professore, mi scusi, poteva dirlo prima. Sa com'è? Qui vicino ci sono stati diversi agguati di mafia e da queste parti per lo più passano trafficanti di droga. Adesso addirittura mi dà del lei. Verrebbe voglia di sputarlo, vale la pena comunque essere accomodanti quando si è soli e disarmati di fronte a un gruppetto di soggetti in abito nero, muniti di manette, pistola e mitra. Beh, se lei me l'avesse chiesto prima. Ma lui sta guardando già oltre, come un segugio, punta il naso verso la strada alle mie spalle, lo sento mormorare, bella donna, bella macchina, mala vita. Affiancato dai suoi inferiori, che ne clonano i movimenti come ombre, il brigadiere si sporge sulla strada a ordinare l'alt. Ferma una macchinona, niente a che vedere con la delinquenza organizzata, è una bionda spaziale, la moglie di qualche notabile. I militari la salutano riverenti, le chiedono i documenti con tono professionale, quasi scusandosi, hanno trovato il passatempo. Neanche mi degnano di uno sguardo mentre raccolgo i miei attrezzi e vado via. Mancano pochi chilometri alla scuola, li percorro stranito. Entrando nel cortile noto una certa agitazione. Dalla porta vetrata vedo il vicepreside entrare e uscire dalla mia classe. Peppe, il bidello, mi affianca all'ingresso. Stavolta i suoi alunni l'hanno fatta grossa, professore Spi. Hanno messo le foto su internet, le foto della professoressa Di Giorno. L'hanno fotografata da dietro. Sapete che lei ha quel vizio di curvarsi in avanti quando deve scrivere sulla lavagna? Loro gliel'hanno scattata a tradimento, con una macchinetta digitale. Lei non si è accorta di niente. E dopo poche ore la foto è uscita su internet. Il fatto è successo la settimana scorsa. Il preside, appena l'ha saputo, ha chiamato i carabinieri e ha convocato pure le famiglie dei ragazzi. È uscito fuori il nome di Marcellino. Lui se l'è negata. La sera stessa la foto è scomparsa da internet. Quindi forse la questione sarebbe finita là, senza altre conseguenze. Il problema però è che mo, ogni volta che la Di Giorno si gira di spalle e sporge il sedere per scrivere, in qualsiasi classe tutti scoppiano a ridere. Voi lo sapete, quella donna è terribile, gliela farà pagare cara e amara. A Marcellino lo vuole bocciare, state attento, voi che gli volete bene. Va a finire che passate una mala giornata, professore. Mi sa che oggi pomeriggio negli scrutini ve la vedete brutta. Mi sono sempre chiesto come mai la collega di matematica sia rimasta zitella. Di corpo non sarebbe niente male, con quel fisico asciutto alla Olivia, ondulato da sensibili e gradevoli sporgenze. Il problema però è caratteriale. La sua faccia lo riflette, scoraggerebbe un eremita scomunicato. Sembra tracciata a colpi di squadretta, naso a 90 gradi, labbra sottili, mascelle marziali, colorito milanese. È il terrore dei bidelli. Li tratta come suppellettili. Anche i ragazzi la detestano. Con lei, in cattedra, le classi più agitate diventano cimiteri. Al posto delle croci, alunni immobili, muti, che coltivano rancore. Tra me e lei, sempre scintille nei consigli di classe, meglio comunque tranquillizzare Peppe. Se si crea il clima sbagliato, rischiamo di fare incarognire ancora di più il preside. Questo fatto complicherebbe la situazione. Lui è sempre dalla parte della Di Giorno. È capace di convocare uno alla volta i miei colleghi in presidenza per intimidirli. Invece, se faccio in tempo a parlare con qualcuno di loro prima che se li lavori lui, forse riesco a tirarmeli dalla mia parte. Bocciare Marcellino non sarebbe giusto. La vita lo ha già bocciato, facendolo nascere senza famiglia, sballottato da un collegio all'altro. Me lo ritrovo davanti alla porta della sua classe, sguardo beffardo e braccia incrociate dietro la schiena. Ciao prof. Ciao Marcelli, evitiamo qualsiasi discussione. Tu e i tuoi compagni sapete già come la penso. Avete fatto una grandissima stronzata. Adesso gli altri ridono e voi passate un guaio. Tu per primo. In classe l'atmosfera è pesante. Durante la lezione di analisi logica nessuno di loro apre bocca. Sanno che la Di Giorno farà di tutto per bocciare Marcellino. E non soltanto lui. Ecco perché non vogliono farmi arrabbiare. Temono di perdere l'unico alleato. Trascorriamo insieme due ore sospesi tra complimenti e predicati verbali, senza sconfinare in discorsi extradidattici. Eppure, quest'ultima bravata dei ragazzi ha suscitato in me qualcosa di nuovo, non so cosa. È un pensiero senza forma, una di quelle idee che germogliano sotto traccia, non riesci a razionalizzarle, però ti si agitano sotto la corteccia cerebrale con insistenza. Forse parlandone con loro verrebbe fuori, ma è meglio rinviare ogni scambio di opinioni a dopo, troppo sottile e pericoloso, è il confine tra empatia e complicità. Nella pausa pranzo, com'è il colorito dei milanesi? Come si dice? Diafano o diafano? Voi che avete fatto il greco? È malaticcio. Verdino, riflessi verdi, bella bella Italo, bianco con i riflessi verdi. Tranquilla Leno che sei tornata in Calabria, quindi recupererai il nostro colorito. Vabbè, ve la leggo velocissimo. Nella pausa pranzo la scuola si svuota. Ci rimango solo io. Di solito esco in cortile a mangiare un panino. Stavolta invece preferisco salire al secondo piano. Alle 2:30 arriverà il collega di tecnologia. Come sempre farà un giretto nel laboratorio di informatica per vedere se tutto è a posto. Anche lui vuole bene a Marcellino. Lo aspetterò lì, così prepariamo insieme una strategia per affrontare il consiglio di classe. E se trovo la sala computer aperta, in attesa che arrivi, faccio pure un giretto in rete. Peppe, il bidello, mi ha lasciato la sua chiave personale del cancelletto interno che dà accesso ai piani alti. Che strano, lo trovo socchiuso. Silenzioso salgo le scale. Vuoi vedere che in laboratorio si è nascosto qualche ragazzo? Rumori. C'è davvero qualcuno lì dentro. La porta blindata chiusa filtra un filo di luce dalla minuscola fessura orizzontale scavata dai ladri l'ultima volta che sono penetrati nella scuola e hanno cercato di forzare la serratura. E se invece di alunni fossero di nuovo loro, i ladri, entrati da qualche finestra in un momento di distrazione dei bidelli? Con estrema prudenza provo a spiare. Accosto l'occhio sinistro alla fessura. Troppo piccola la porzione di spazio che si riesce a intravedere. Quel poco che basta, però, a fissare sulle mie incredule pupille due candide gambe di donna divaricate sull'ultima fila di banchi che stringono i fianchi di un uomo con le brache abbassate. a farle da spalliera una pila di vecchi monitor da rottamare. Il modesto campo visivo offertomi dallo spiraglio impedisce all'occhio di seguirla al di sopra del ventre. Sulla sua camicetta sbottonata infierisce un torace maschile, pazzesco. Due adulti che fanno sesso. Lei geme accogliendolo, lui espira rauco a ogni spinta. Dall'irruenza dei movimenti e dal forsennato agitarsi delle mani si intuisce che sono amanti. Non riesco a vederne i volti. Sulla coscia destra della donna, nitido, si scorge un tatuaggio. È un serpente attorcigliato a un drago. Rimango qualche secondo incollato. Che fare? Non sono mai stato un moralista. Però siamo in una scuola. Forse dovrei bussare, farli smettere, chiunque loro siano. L'istinto mi dice invece di correre a nascondermi nel ripostiglio di fronte alla sala computer. Da lì potrò vederli senza essere visto. 15 minuti dopo, infatti, escono. Nemmeno un regista porno sarebbe in grado di scoprire cosa sia avvenuto fino a pochi secondi fa tra quest'uomo e questa donna. Li ritrovo, puntuali, allo scoccare dell'inizio degli scrutini. I corridoi si rianimano con le potenti voci dei soli insegnanti. Il dirigente preside e la collega docente, Mirella Di Giorno, nella sala professori, appaiono impeccabili. Due professionisti esemplari, lui con i registri in mano, attorniato dal consueto alveare di Lecchini, lei impugna la valigetta d'ordinanza. Rovista nel cassetto a caccia dei compiti di matematica, prove inoppugnabili della necessità di bocciare. Dovrebbe essersi addolcita la sua proverbiale ira disciolta nel recente amplesso. Al contrario, appare più tedesca che mai. Milanese. Nell'aspetto quasi niente la tradisce, tranne un lieve rossore intorno alle labbra. Riflesso dello sfregamento con la barba affiorante del dirigente. Chi potrebbe mai immaginare che sulla pelle di questa monaca mancata si agiti un serpente capace di avvinghiarsi a un drago? Il consiglio ha inizio. In apertura il preside non perde tempo. Chiede i nominativi degli alunni da fermare. Forse nel piano dello scambio sessuale piuttosto che nell'orgasmo hanno trovato piena intesa su questioni scolastiche. Senza alzare lo sguardo, la Di Giorno sciorina il suo rancoroso elenco. Il primo della lista è Marcellino. Non ha aperto libro per tutto l'anno, manca di rispetto all'insegnante, assume comportamenti devianti, è un elemento privo di freni morali. Dandole un calcio sotto il tavolo, gli altri se ne accorgerebbero. Farei la figura del molestatore. Urlandole davanti a tutti quel che so, mi prenderebbero per Guardone o peggio per bigotto. E a parte la soddisfazione di attentare al sistema cardiaco del preside, servirebbe a poco. Una volta tanto, allora bisogna giocare d'astuzia. Chiedo e ottengo la parola. Mi dilungo in una serena difesa del ragazzo da libro cuore. Alcuni colleghi ascoltano annuendo, altri rimangono freddi, impassibili. La Di Giorno interviene di nuovo e stavolta prova a provocarmi. Ricorda che a volte sono proprio gli insegnanti, con le loro debolezze e complicità, ad aizzare i ragazzi contro l'istituzione scolastica. Come interpretare altrimenti gli ultimi spiacevoli episodi? Quelle fotografie che hanno caricato su internet sono servite ad amplificare la loro stupidità. La verità è che se nelle classi si usassero di meno i linguaggi calcistici, forse gli alunni non assumerebbero a modello quelle masse di idioti che vanno allo stadio. Stamattina, quando mi giravo per scrivere sulla lavagna, urlavano gol. A queste parole mi si accende un lampo nella regione profonda del cervello. Assume sostanza il pensiero che poche ore fa davanti ai ragazzi non riusciva a prendere forma. Mi viene voglia di correre fuori, devo incontrare al più presto Pinuzzo, l'avvocato e gli altri nostri amici. Forse ho trovato la via giusta per mettere a frutto il materiale che abbiamo trovato nello studio di quel signore. Ma prima bisogna salvare Marcellino. Tutto il consiglio di classe aspetta una mia reazione alla sparata della Di Giorno. Rimango muto, inutile gettarla sulla rissa. Lui e lei avrebbero la meglio. Preso atto che gli orientamenti rimangono contrastanti, il preside mette la decisione ai voti. Quattro colleghi votano insieme a me, no alla bocciatura. Gli altri cinque sono favorevoli. Manca il voto del preside, che però non se la sente di essere determinante. Se il consiglio decidesse senza esporlo a rischi, lui avrebbe vita facile. Ma se sarà lui a emettere la sentenza, teme che l'unico fratello di Marcellino, prossimo a uscire di galera, gliela faccia pagare. Allora sospende la riunione per un quarto d'ora. Prendiamoci una pausa di riflessione. La sala si svuota. Non è un caso se rimaniamo all'interno soltanto io e la professoressa Di Giorno, che lestami dalle spalle tuffandosi sull'armadietto degli insegnanti, col naso conficcato nel suo cassetto. Morbido, la affianco. Fingo di rovistare tra le mie cartelle. Mormoro poche frasi a me stesso, rivolto a lei. Lievi raggiungono il suo udito. Forse la collega ha ragione. Quel Marcellino è un alunno da bocciare. L'altra volta l'ho sorpreso in sala professori con i pantaloni abbassati. Povero illuso. Non sapeva che in una scuola seria come la nostra si è sempre sorvegliati. Lui subito si è rivestito. Gli ho ordinato di dirmi cosa nascondesse. Mi ha mostrato il tatuaggio che si è fatto disegnare sulla coscia destra. Un serpente attorcigliato a un drago. Gli ho detto che non avrebbe dovuto farlo. I tatuaggi rimangono sulla pelle per tutta la vita e a nulla serve nascondersi. Dalla fronte pallida della di giorno sgorga un gocciolone di sudore. Solleva il naso, dischiude la bocca serrando i denti laterali, ma non ha il coraggio di girarsi a guardarmi. Nemmeno alla ripresa dello scrutinio avrà l'ardire di rivolgersi verso di me, mentre tremante prenderà la parola nello stupore generale per confessare un ripensamento. Ho dato un'occhiata più attenta ai compiti in classe. In fondo l'alunno ha raggiunto gli obiettivi minimi programmati. Bocciarlo sarebbe un errore. Bello, proprio bello. Vabbè, giusto come un ricordo lampo della prima parte, la strada di Cassano, ma non so se era quella, che... però ho avuto questo ricordo, mi hai portato di... Stavamo andando a fare spettacolo proprio a Cassano con Marco Silani, che non so se ce l'hai presente con me. Eravamo tutti e due, insomma, barba lunga, occhiali da sole, con una Citroen di quelle decappottabili. Ovviamente all'orizzonte si stagliavano i carabinieri, mi fermano, l'hanno fermato. Ed erano veramente, cioè con i mitra, perché noi veramente facevamo abbastanza impressione, Marco molto più di me, insomma, con i capelli rasato, il pizzetto. E niente, ci fermano. Documenti, ma avevamo una grande carta a cui noi non avevamo pensato assolutamente. Dietro c'era il figlio di Marco che dormiva nel passeggino, ma noi non ci pensavamo. Quando il carabiniere si è affacciato dentro, perché aprite dietro, si è affacciato e c'era: ah, ma c'è il bambino che dorme. Dici: ma dove state andando? No, stiamo andando a Cassano a fare spettacolo. Andate. Ci ha salvato il bambino che dormì. Chi c'è adesso? Maria. Dopo la lettura scolastica, insomma. No. Diciamo che sono storie molto verosimili in realtà. E io voglio leggere questa cosa che, non lo so, insomma è una bozza fondamentalmente, scritta anche di getto, quindi insomma non spaventatevi. E non è dedicata a nessun cosentino, giusto per rimanere in tema di stranieri. E per, diciamo, ovviare a qualche fraintendimento. Il primo verso, è in realtà una canzone dei Verdena che mi piace molto, e dice così: Deni è di più di un hippie è un grillo, e Giude è con me, farò bene a non dirlo, Mary è giù in spiaggia, il sole non c'è, in un'estate a rischio, così, sarebbe stato più bello cantarla, però non è il caso. E lui, quel ragazzo uscito chissà da dove, era un grillo, saltellava con gli occhi per guardarsi in giro, si sistemava in continuazione il ciuffo di capelli sugli occhi. Poteva mai essere vero? Come poteva una donna che in altri tempi si sarebbe considerata vecchia, zitella, sentirsi affascinata a quel modo da un viso appena uscito dall'adolescenza? Come poteva essere accaduto? Si erano sfiorate appena e malgrado cercassero una via di allontanamento, finivano sempre per ritornare vicini, sempre di più. Una carezza sui capelli che scende al viso, le mani si toccano per passarsi la sigaretta. L'immagine di un mare turchese e velenoso emerge chissà da dove. Poi la corsa fra la gente a scansarla come birilli. Una corsa fra alberi umani. Lui le ha detto qualche cosa di spiacevole ma ride. E ride anche lei, si inseguono, ridono. Correre fra gli alberi e in questa notte buia che non durerà. E sono arrivati. Lei lo prende un po' a botte, finte. Lui si dà di spalle, ma è un attimo. In breve è lei fra le braccia di lui che non sa come tenerla, come abbracciarla, là dietro in quell'angolo dove tutti li possono vedere. Si avvicinano sempre di più, strettissimi. Chiudono gli occhi insieme. Il bacio più tenero e dolce. Un bacio da adolescenti che non sanno di sesso. Correndo fra gli alberi e in questa notte buia non durerà. Le labbra sono morbide e sanno di qualcosa di buono. Si avvicinano sempre. E dopo tante, troppe storie stupide che promettono ma non sanno di niente, Il bacio così dolce che fa tremare, piangere, non ci sarà in altri. Solo una grande utopia come può esserlo una bandiera con la A cerchiata. Utopia dal sapore vero, però. Ancora la corsa che rimane impressa, una corsa fra birilli umani. Un'immagine fissa, rimasta per sempre, più degli uomini. Il mare turchese è avvelenato. Eppure tutti dovranno morire prima o poi, e prima o poi si sentiranno più o meno vicini alla morte. Una corsa però fra le foreste di uomini serve a sconfiggere la morte, per sempre, in una corsa finta, abbracciati per il più dolce bacio che si possa mai verificare sotto il cielo turchese della primavera. Buona fortuna, ma non finisce così. Come una canzone del testo indefinito dove è facile immaginare cosa accadrà, ma ciascuno ha la sua interpretazione. La strega delle favole che fa ingrassare i bambini non è altro che più bimba di tutti, fra le sue braccia sottili che ancora è più leggera, ancora più raccolta. La corsa è la sola salvezza. Serve correre ancora di più, leggeri. E basta guardarsi negli occhi vicini, a sfiorare i nasi. Non ci sarà che questo scampo. Non ci sarà che questo per sempre. Rimanendo liberi di scegliere, lei sceglie di ricordare. Un attimo come un sogno arriverà, correndo fra gli alberi. E sono in preda al delirio. L'amore conda, sembrava inutile fino a ieri. Non credi poi che dovremmo correre di più? E gli uomini in sé sono in preda al delirio. E questo è proprio un bel pezzo di delirio, insomma. Che... Sì, sì. E anche questa qua è una canzone di Verdena. Questa, gli uomini in sé sono un pieno delirio. Però questo è il mio sponsor, quindi... Lo sponsor del delirio. Sì, no, il racconto è mio. Racconto, insomma, questa cosa. Che, ripeto, ci tengo a sottolineare, non è né dedicato a nessun cosentino. No, no, lo possiamo dire tranquillamente, né ad alunni, perché insomma qua si parla di giovani e che insomma non sia mai c'è una storia del genere, non sia mai. Non è vero che è un alunno, no. Non sia mai. La scuola è una cosa seria, malgrado tutto. No, no. Non ho sentito tatuaggi, ma sono in una scuola materna comunque, quindi... Scuole di frontiera, ma sapevo. Tre comunicazioni rapide, così le dico a voi, fanno pure online. La prima è che sono usciti due libri nostri, cioè la tipografia ce l'ha consegnata, ce li consegno domani. Uno è il libro di Ernesto senza refusi, regolarmente datato di frontespizio che ce l'avevamo mangiato, quindi da dopodomani in poi possiamo distribuirlo nelle librerie cosentine, appunti per spettacoli che non si faranno, e poi aspettiamo da Ernesto la data per la presentazione alla UB. C'è l'ipotesi 10, perfetto, che è lo sciopero dei COBAS della scuola, e invito i colleghi ad aderire, perché è uno sciopero, uno dei pochi scioperi sensati, che punta a bloccare la somministrazione delle prove Invalsi, che sono la punta dell'iceberg della scuola azienda, la scuola dei quiz. Poi magari in altra sede ne parliamo. Comunque, siccome c'è lo sciopero dei COBAS, un motivo in più per essere in massa, per chiamare il 10, lo fanno il 9 nelle elementari, il 10 nelle medie e l'11 nelle superiori, perché sono tre giorni, eh? No, no, è scaglionato, questa volta è scaglionato, perché il ministero manda le prove Invalsi per tre giorni di seguito, elementare, medie e superiori. Quindi fare sciopero per tre giorni significa bloccarglielo, cioè rendergli la vita difficile. Molte scuole coraggiosamente gliele stanno rimandando indietro queste prove. Però in Calabria è difficile convincere i colleghi che non arrivano i marziani, che non sgombereranno la scuola con l'esercito, come nei film di Buñuel. Cioè, insomma, è molto dura, insomma. Però... poi ne parliamo un'altra volta delle prove Invalsi. E questa è la notizia. Comunque il 10 potrebbe essere la data della presentazione del libro di Ernesto. Potrebbe. Dipende pure la disponibilità di Elena. Poi è uscito anche il libro di Canaletta, Fissi anno, quello in vernacolo. Ce lo consegna domani la tipografia. E anche Sergio, in quel periodo, hai fatto bene a dirmi la data, perché non vorrei che ci siano sovrapposizioni, sta programmando la presentazione del suo libro. La faranno alla Terra di Piero, che è la sede loro, della Ollus, con la scusa inaugurano pure la sede Viale Parco, esattamente di fronte al Rialzo. Quella è la sede della Ollus, e lì presenterà questo Fissiano, Fissiano che è interessante, insomma. La terza notizia è che con Maria, Dino e qualche altro stiamo lavorando, e questo è un appello pure ai presenti e agli assenti, alla mostra per i 10 anni dell'operazione, Franco poco fa parlava del movimento No Global, dell'operazione No Global. E il titolo della mostra sarà molto globale, generale, alla larga dei localismi, dai municipalismi, le giornate di Cosenza. Quindi noi lo facciamo apposta per dire che per noi la nostra città è l'ombelico del mondo e non ce ne fotte nulla di quelli che diranno che il movimento è globale. Noi abbiamo fatto le giornate di Cosenza e pensiamo che quella cosa nel sud Italia poteva succedere solo a Cosenza, cioè che 100.000 persone, 60.000 persone scendessero in piazza contro la procura, contro una ordinanza del ROS, con l'appoggio del vescovo, del sindaco, della gente dei quartieri, secondo il mio modesto avviso 10 anni fa poteva avvenire solo a Cosenza. E quindi noi stiamo lavorando con Maria alla raccolta dei materiali relativi non solo al blitz che portò all'arresto nostro, ma tutta la settimana di mobilitazione successiva a quell'arresto, quindi l'occupazione della sala consiliare, le diverse assemblee all'Università della Calabria, al Cinema Italia, la veglia del vescovo, il sit-in al tribunale, e poi in realtà racconteremo tutta la vicenda negli ultimi 10 anni in maniera sintetica, dedicando ad ogni tappa un tabellone o più tabelloni fotografici con ritagli di giornali. Lo dico nell'ambito di un laboratorio di coesenza, perché l'orizzonte è quello di pubblicare la mostra, di ripubblicare la mostra contemporaneamente su cartaceo, cioè dandole un'altra veste grafica, per cui il cartaceo dovrebbe fare da sostegno finanziario alla mostra, perché la mostra saranno 40-50 pannelli che stampiamo in Germania a costo ridotto, che alla larga della tipografia italiana su lavori come questi, saranno tabelloni di 70-100. Immaginate, ci sono tabelloni tipo la prima pagina del Manifesto, che è una pagina di storia, 24 novembre 2002, c'è la foto di Cosenza, sotto c'è scritto Revolution, a tutta pagina. Oppure i titoli di Repubblica, del Corriere della Sera, sembrano montature fatte da grafici, invece sono pagine di storia. Siccome tanti ragazzini che hanno 18 anni oggi, ne avevano 8 all'epoca, o gliela raccontiamo noi sta storia, o a novembre sarà il solito inseguimento di pagine e pagine di giornali che spareranno un sacco di cazzate e diranno come furono bravi i politici, come furono bravi i leader del movimento, come furono bravi i teorici, i filosofi, i pensatori. Non è vero un cazzo. Come fu brava la gente di Cosenza, le casalinghe, gli umili, gli ultimi, i poveracci, che scesero in campo e convinsero l'Inquisizione ad inginocchiarsi. Quindi questa è la storia che vogliamo raccontare noi, una storia molto faziosa. Chi la vuole raccontare diversamente la racconti con i suoi linguaggi. Noi abbiamo i linguaggi del racconto e usiamo il racconto. Chi fa sociologia dirà che quella è stata l'esplosione del comune, l'utopia più alta, la flessibilità del capitale, non lo so come cazzo si dice. Per noi è stata una storia bellissima, io anche dal carcere me la sono vissuta benissimo vedendo le immagini che mi arrivavano. E voglio raccontarvi solo quest'ultima cosa e poi basta. Io vi devo confessare che guardo Porta a Porta. Cioè, no, lo devo dire, faccio outing. Concilia il sonno. Lo guardo, sì. Soprattutto quando parla di omicidi, di cose, me lo guardo. Perché è una forma di masochismo. Mi piace soffrire e vedere a che punto di bassezza siamo arrivati in questo paese. Sì, io la sera prima che mi arrestassero lo guardavo Porta a Porta. Sul delitto di Cogne, mi pare, una cosa del genere. E queste cose. La sera dopo, 2 sere dopo, ero in carcere e guardavo Porta a Porta che parlava di me. È una sensazione bellissima, vi assicuro, una cosa meravigliosa, che tu sei solo nella tua cella, nessuno ti può rompere i coglioni, al massimo ti possono ammazzare, però non so, perché in un carcere questo può succedere, che improvvisamente un secondino apre la porta e ti ammazza. Ma voglio dire, poi in fondo, che cos'è di fronte alla vita, no? E alla morte, cioè, almeno lo sai, che ti possono ammazzare da un momento all'altro, può capitare. Però è bellissimo stare nella tua cella chiuso, non puoi uscire perché non puoi andare da nessuna parte, sei tu ed Emilio Vespa, e in più Emilio Vespa sta parlando di te. Sì. Vespa, come si chiama? Di Emilio? Bruno Vespa. Lo odio al punto tale da rimuovere. A livello di lecchinaggio siamo là. Lo rimuovo. Volevo dire Emilio Fede, ho detto Bruno. È un lapsus, una crasi. Esatto. Comunque eravamo io ed Emilio Vespa, da questo momento in poi ribattezzo. E mi guardavo queste scene, poi ho visto pure De Bonis in televisione. C'era una cosa meravigliosa. Io che sono stato un cultore dell'LSD, da ragazzino ne ho fatto ampio uso, in maniera mai autodistruttiva, sempre nel godimento assoluto di questa sostanza e dei suoi effetti. Qualche ritorno c'è ogni tanto. Ho visto, sì, tutto, sogno di prenderlo, però in questa situazione di tristezza infinita in cui vive il mondo non è il caso. Quindi quando troverò un compagno o una compagna che lo prendono con me allegramente. No, un ritorno nel senso che qualche rimane, no, un eco. L'ultima volta che l'ho preso ho visto Oreste che distribuiva volantini alla Silenfesta, perché aveva i carabinieri... Non prenderemo più. I carabinieri erano appena entrati a Siena in veste, avevano sparato in aria perché volevano arrestare un pusher, e il giorno dopo Oreste pensava di essere al G8 e distribuiva i volantini contro i carabinieri a Siena in veste, in un popolo di ubriachi e di sballati sott'estasi. E io ero uno di quegli sballati che gli girava intorno, e invece di raccogliere il suo invito alla solidarietà, alla militanza e all'impegno, correvo lungo il lago perché ero troppo felice. Questa è stata l'ultima mia esperienza con la lisergia che mi ha lasciato questa, queste tracce. Scusate la lunghezza. Il lago naturalmente era turchese. No, vabbè, ti devo portare i giornali che ho io, perché ne ho una bella busta già preparata. Sì, sì, sì, già preparata, te la devo solo portare. Ma tu ce l'hai sempre il cappello che avevi quella mattina poi quando sei venuto alla manifestazione? Quello è fondamentale. La sera che mi racconta, l'altra volta mi sono riletto, che dopo 10 anni finalmente ho avuto il coraggio di andare a riguardare queste carte, e c'è Imarisio che racconta io com'ero, ed è una cosa di un patetico bestiale, cioè, mi sono vergognato di essere in quel modo. Ci si vede che è uscito adesso dal carcere e completamente rincoglionito, dimagrito, i capelli lunghi, cioè fa una descrizione proprio di... è vero, sì sì, no, è vero. Ma comunque al di là della... cioè, quel giorno in piazza c'era Maria Rosaria Sessa, no? Sì. Che poi da lì a qualche mese... sarà trucidata, cioè quello secondo me fu uno dei momenti più intensi della storia, non solo di Cosenza, di questa regione e di questo paese. Averlo dimenticato significa aver dimenticato. Foto che abbiamo fatto poi l'anno dopo, chissà chi ce l'ha. Questo, dobbiamo informarci su questo. Qualcosa l'abbiamo conservato, che era Liberi Tutti, mi pare che si chiamava. Sì, io qualcosa ho. Quindi c'è. Sì, però in quel caso furono fatti dei pannelli alla Casa delle Culture, cioè proprio dei pannelli, mi ricordo, anche stampati bene. Vabbè, si può chiedere a qualcuno che lavorava alla Casa delle Culture all'epoca. Vabbè, magari sono... cioè recuperarli sarebbe buono, erano tanti, eh. Era un sacco di gente che aveva contribuito. A livello fotografico si pone il problema solito, i fotografi sono gli artisti più gelosi del loro prodotto, cioè non te le danno, io... Sì, sì. Già sappiamo perché le avevano, cioè io pure c'ho due o tre foto mie scattate con una macchinetta così ridicola. Io ho qualcosa di Luigi Celebre, qualcosa di Francesco Grazioli, qualcosa mi ha dato ecco, le foto più interessanti c'era Gianni Muraca, che però a differenza di tanti altri che si conservano le foto perché forse sperano che così fra 300 anni i nipoti faranno dei soldi, no? Cioè questa città è piena di gente che a casa conserva documentari, immagini, riprese a fare eccezionale, e che si guarda bene dal metterla a disposizione del prossimo, no? Perché c'è pure questo, no? La gelosia assurda del sapere, della conoscenza. Io ho capito che uno di proprietà si chiama. Sì, sì. Però per esempio, Gianni Muraca è un fotografo, non è uno di questi. È anarchico. Ecco, non lo sapevo. Ha prodotto un DVD con le foto di quella di quei giorni, l'unica ad aver fotografato la polizia sotto le case, la polizia all'università, le cose, cioè, i momenti proprio belli, ecco il sit-in al tribunale. A differenza degli altri, li ha messi su un DVD, ci ha messo una musica sotto, non bellissima, però insomma almeno l'ha fatta girare queste foto. E io adesso sto prendendo le foto dal suo DVD, che hanno una qualità eccezionale. Cioè c'è una foto di Peppino Mazzotta Buonanima che tiene in mano il fascicolo, il faldone, che secondo me è d'antologia. Solo le sue mani, cioè Peppino Mazzotta, c'era Guambo, che era un compagno che adesso non c'è più, che era stato arrestato insieme a noi, c'era, non lo so, Gigi Commisso, che non c'è più, se stiamo qua c'era Tommaso Sorrentino, ci sono persone che in questi 10 anni purtroppo ci hanno lasciato, che però avevano un patrimonio di conoscenza, di intelligenza politica, pubblica, collettiva, eccezionale. E secondo me raccontare quelle giornate significa raccontare pure queste persone, insomma, no? Non lo so. È un invito a tutti a collaborare, a dare una mano, ecco, perché Franco ha aperto la discussione sui no global, new global. La colpa di questo no global è di Francesco Caruso. Lui lo ammette, perché lui il primo forum avvenne a Napoli nel marzo di quell'anno e poi fu a Genova. Il forum era Global Forum. Allora i napoletani lo chiamarono No Global Forum. Da questo No Global Forum nasce questo maledetto nomignolo No Global, che non ci azzecca un cazzo, perché io sono per la globalizzazione, non sono contro la globalizzazione, cioè sono contro questa globalizzazione che fa passare i soldi e ammazza le persone. è la natura, però non sono assolutamente per i confini, per le patrie locali. Tutti quanti noi siamo pregiudizialmente internazionalisti, insomma. Poi amiamo la nostra terra più di, io la amo più di qualsiasi altra cosa, però cioè, il mio sogno è vivere dal Polo Nord o al Brasile come Stefania, cioè, non, a me dalla mia vicina di casa non me ne fotte nulla, insomma. Mi dispiace se sta male, le do una mano, però io preferisco il senegalese sotto casa mia, insomma. A me piace la mia terra col cielo turchese senza il vicino. Vorrei morire in Sila. Comunque, visto che mi hai commosso talmente tanto con la storia del 2000 e pochi, del No Global Social Forum, eccetera, eccetera, domani ti prometto che, anche se mi costa tanto a livello emotivo, riapri quel maledetto computer che si appiccia a cura Manuela quasi, e vado a vedere se ci sta delle foto del materiale, perché comunque c'erano dei volantini, comunque c'erano delle cose. Riapri quel maledetto computer del 2000 che fu. Chi passa il microfono? Io c'ho ancora roba. Ho un micro raccontino. Io non scrivo racconti, due ne ho scritti nella mia vita. Questo, uno è questo, ma perché era tipo un corso di scrittura, ci hanno fatto fare un esercizio. Se no, no, non è proprio cosa mia. C'è il racconto di una bicicletta blu, però me lo cambio e metto che era turchese. E quindi si chiama, il titolo dell'esercizio era La mia prima bicicletta. La mia prima bicicletta era turchese. Era blu all'origine, veramente. E aveva due rotelle. Non ho idea di che marca fosse. Non mi sono mai interessate le marche. Furono i miei nonni a regalarmela per il mio quinto compleanno. Era il 1983. Io la volevo da un sacco di tempo. Il triciclo non mi bastava più. Andava avanti e indietro nel giardino della casa del mare e nel giro di un agosto scomparve una prima rotella. Fu una piccola conquista. Sapevo che prima o poi mio padre avrebbe smontato anche l'altra. Dovetti aspettare il ritorno in città per provare l'ebbrezza dell'equilibrio. Dal sesto piano mio fratello maggiore si caricava sulle spalle il mio bolide e poi, giù nel cortile, mi accompagnava lungo il perimetro del palazzo con una mano sulla spalla, che mi infondeva la stessa sicurezza di una rotella. Finché anche quella mano sparì ed io, per la prima volta, mi sentii grande. Me lo chiedi sempre quando leggo le cose, chi le ha scritte. Mi piace perché lo immaginavo. Ma è bellissimo perché mi hai ricordato la domanda scolastica. Sì, sì, sì. Con le rotelle, eh? Prima tre, poi due, poi senza niente. Eh sì. Quando non ero più un bambinissimo, ma ero già un ragazzino, me l'ero dimenticata, provando a far addormentare mia figlia, mi è tornata in mente e ho cominciato a cantarla spontaneamente. Sono cose strane e belle, se vuoi, pure, no? E il modo mi ha fatto ricordare la storia della bicicletta che a Bonanni insieme mi ha comprato a De Trombino, che erano negozi di giocattoli di rimpettare la Fontana di Giugno. Mo sta cazzo di bicicletta, no, sfida che era difettata. Allora, appena mi ci assettava di sopra, io ero una cosa più magra di figlia, ma c'è proprio un palo. Non si chicava, cioè si vede che sti rotella, mio nome si supana, quindi capito, si inclinava. Facevano apposta, secondo me, che così in quel modo uno trovava l'equilibrio. Sì, l'equilibrio, per passare la parte. Io mi ci avvicinavo a tutti su. Ma mi sembra che tutte così, eh. Ma noi ci avevamo riportato, poi hanno andato un'altra volta a quelle rotelle nuove, mi ricordo tutto sto stand di mamma, ma uomo stai ricordando, cioè eravamo completamente rimosso. Alla mia età le biciclette non c'erano, non era l'immediato dopo quello. Quali materiali usavate? Legno? Legno. Legno. E i meccanici ci davano i cuscinetti. I cuscinetti. Con i cuscinetti, mamma mia, dei c'era. Mi ricordo ancora, quindi due pezzi di tavola, una verticale e un altro orizzontale. Un pezzotto chiamavamo, cioè un cupo, insomma, che si metteva per lo snodo, con un affare di ferro, insomma, che serviva per accoppiare i due pezzi, e poi sopra un manubrio. E tutti a partecipare a costruirlo. Oppure i carrozzini, sempre quelli, praticamente erano due ruote dietro, una davanti, e poi una specie, una davanti con un manubrio, insomma. Poi andavamo nelle discese. Un rumore ed era, sì. Quei rocchetti di ferro. C'era quello a cui ho tirato la pietra in testa, che era un esperto, penso così ancora, perché tra l'altro è il meccanico, che era un esperto costruttore di... Anche i palli, le palle. Sai come le cose... Non ce n'erano palle all'epoca. Subito dopo, con l'americano, insomma, noi, circolate qualche palla. E allora li costruivamo da sole. E li costruivamo con le calze da donna. Wow. Le calze da donna. Sì. Li riempivamo di cose, di pezzi. Una volta abbiamo scoperto su un deposito su un treno bombardato che c'erano i sedili che erano imbottiti di caucciù, di gomma, insomma. E quindi invece ci mettava pezze, ci mettevamo sta caucciù. Poi praticamente la tecnica era questa, dovevi mettere in fondo sto materiale, poi giravi e ripetevi due o tre volte, lo infilavi di nuovo dentro, non so se mi spiego, e lo facevi due o tre volte, poi lo cucivamo e veniva una palla che facevamo delle partite che non finivano mai. Un treno bombardato era. C'erano delle cose sventrate, dei sedili sventrati, e siccome l'imbottitura era di gomma più gomma, non so che cos'era, no? Vi parlo di 70 anni fa. Quindi, e poi un'altra tecnica formidabile erano i sciommoli, perché vendevano il legno, non si vendeva a trottola completa. Quindi poi dovevamo andare, ancora c'erano i maniscalchi che ripetavano in cavallo, e noi ne avevamo uno sotto casa. E la tecnica di infilare un pirno, no? Era delicatissima, perché se sbagliavi a centrarlo, o sciomero non era più equilibrato, hai capito? E quindi era un'opera d'arte, insomma, riuscire a fare. Però era proprio la costruzione, perché poi c'era la corsa che ne faceva meglio, insomma, chi riusciva e chi no, insomma. A Corso Plebiscito ancora li fanno, di vicino San Francesco di Paola, c'è cioè proprio uno di quei negozi di Vimini, ancora vende sciumoli. Guaragnuolo. Come si chiama? Guaragnuolo. Hai visto che c'è quella sequenza di negozi, no? Tutti Vimini, cestini. Il secondo, mi pare, il terzo li vende. Vende proprio un sciumolo vecchio di Ma domani, lo fa lui? Li fa lui? Li fa lui. Ma Giovanni, però, sennò che ci fa. Giovanni Pella lo sa usare benissimo, è un maestro. Non è fatto, tu sa usare Italo. No, non è facile, bisogna provarci un po' di volte per prendere. Ma devi mettere la mano proprio col polso tutto, sai? Due erano complicati. Erano due, uno si faceva una ruota a terra, si metteva al centro dei soldi, delle monetine, e con lo sommolo tu giravi un somaro, lo dovevi pigliare e con il perno o con la testa dovevi buttare fuori dalla ruota i soldi. Tutti quelli che riusciva a cacciare fuori erano soldi vinti, insomma, e quindi si giocava a soldo. Oppure l'altro, più violento, era che si faceva il tocco, eravamo 5-6, e chi usciva doveva mettere un sumolo nel centro e gli altri tiravano, cioè mentre quando giocavi per cacciare i soldi un sumolo lo facevi girare così, no? Quando invece tiravi a colpire l'altro lo gettavi così e lo gettavi per colpire, per colpirlo, proprio per colpire, non dico spaccarlo, ma comunque di colpire con la punta di ferro il legno, insomma. Un bidello da scuola mio, signor Anselmo, gliel'ho portato. Questi erano i due. Giocato, e poi lui lo lanciava, come hai detto tu, al contrario, o a fasba, e poi lo prendeva con la mano. Con la mano, sì. Io non pensavo che era una cosa fisica. No, no. È chiaramente è una cosa veloce che devi fare. Così impressionante. Sì. Ma il primo qui entrava da così era a mezza e poi ha pigliato. Cioè, ma lui lo fa andare poi. Sì. Mentre va, se tu attorcigli la corda e tiri, riesci a farlo andare anche mentre dove via scaffe quella corda, no, vero? No. Sì, sì. E c'erano le stagioni, ogni stagione aveva. Ma invece io mi ricordo che mio nonno mi raccontava che invece loro facevano le gare con le forme di formaggio. Anche, ma questo nei paesi, cioè, c'erano alcuni paesi. Cioè tiravano adonici, cioè adonici, sì. Come una rotta, come una rotta, sì. Sì, sì. Tirava proprio fuoco, perché tu immaginati, cioè che non è la forma del parmigiano, c'è cioè un pecorino. Facevano chilometri, facevano chilometri, facevano donne cicusense, insomma. E per forza, ma scusa, tu la lanci nella discesa, perché l'abilità consisteva in questo, di fargli fare il tratto più lungo, no? È una ruota. Non so esattamente dove si svolgevano, però c'è sta cosa che chi andava a plondare e poi vi sta. Sì, sì, Attonici, me lo ricordo. Era anche. Ah, lo fanno. Ti giocavi e lo mangiavi. Lo fanno? E mi raccomando, quando torna in casa. Non è che tutti gli uomini facevano, penso che era una cosa che aveva. Erano stagionali queste cose. Le noci, per sì. Le noci, no, proprio le noci, noi in Ucita. Sì. In Ucita a Natale facevamo i giochi a Natale. No, noce a stagione di noci, i castelli, si facevano i castelli. Vengono anche dalla Puglia, dalla Basilicata, giochi popolari, sciumbo, sacchi, fionda, cerchio, chiudo un cerchio e chiudo un cerchio di ferro e tu lo vedi. È la fune. È bellissima. Ho fatto un cambom. E quando è che fa? Domani lo facciamo uno. Lo fanno, loro lo fanno il 26 maggio al Parco Robbins. La fanno una volta ogni due anni, pare. Ma io l'ho visto in servizio al TG2 Dossier e a Piero Alghero. Facevano proprio il servizio su. E l'ultima volta hanno coperto tutta la Calabria Ionica partendo da Reggio. E chi è che lo organizza questo? È bellissimo. Fanno questo con l'uovo, cucchiaio e uovo, che dice un spasso, cucchiaio di plastica e uovo che deve correre con il piatto lì. E poi dice che se i bambini cadono l'uovo da loro, vogliono pigliare, non puoi mai, che è una guerra, è stata una liscialda, che io dici bello. Poi una reminiscenza del catechismo. L'unica cosa che mi è venuta in mente è il turchese, però la penna non funzionava, no? E spero che si capisca. Parto dai milanesi, parto da Milano. No, io ci sono stato tant'anni, insomma. 25 anni ho fatto di qua. E quindi tutti gli anni poi provavo questo brivido qua. Grigio, caldo, sudore affumicato, case, fabbriche, case, palazzi. Nero lungo serpente, a tratti puzzolente. Il vento forzato, velocità, facce verdastri dai finestrini. Qui non riesco più a leggere. Buio, buio, buio, buio, luce. E dopo 1119 chilometri, finalmente il grande turchese, il mare. Arrivando da Milano, facendo l'autostrada del sole, la prima volta che vedi il mare lo vedi qua a Lamezia, praticamente, prima di Lamezia, quello scorcio lì, prima non lo vedi mai. Poi per anni invece ho preferito fare l'altra strada, Ancona, l'Adriatica, ce l'hai quasi sempre, insomma, dopo, appena arrivi al mare, ti senti più arrivato. Io ho fatto per 25 anni Milano, Lecco, Manzoni, insomma, il territorio lì, Petronaca, il mio paese, avanti arrivo con la macchina, insomma. E quindi non conosco, per esempio, i fatti questi, ne ho sentito parlare vagamente, quelli che dicevi del 2002, ancora ero in bilico, sono qui, sì, ero più là che qua, insomma. Poi da quel momento in poi ho cominciato a essere qua, 2003, 2004. Se riesci a leggerlo, scrivo tu, mandi di me. Ah, dici se la dici tu, io? Sì, se vuoi fare. Questo è bello. Non riesci a leggerlo, ma quando me ne Ah, vi do una notizia. Oggi c'è stata la premiazione dei corti in città. Io ho partecipato con i miei, abbiamo fatto un film, siamo classificati secondi, però siamo primi nel senso che siamo contenti, è stata una bella storia. Bene. Il bambolo si chiama. Che è quello di cui ci parlavi, non ci siamo visti a... Probabilmente sì, è un racconto di Mario Lodi che noi abbiamo reinterpretato. Bello, però è piaciuto, i guarnelli si sono sciavati, insomma la cosa bella la cosa proprio bella è questa, che si vede che era un film vissuto, frizzante, vivo. Ha vinto invece un film di girato qua, intorno, Cosenza Vecchia. Spirito Santo, con ambientato fra l'altro nel 38. No, è una bella storia. Però. Tutto da ragazzi. Sì, sì e no, diciamo. Credo di sì, perché vabbè, anche il mio... fatte dalle scuole. Sì, sì, scuole, c'entrano sempre le scuole, quindi c'entrano i ragazzi, c'entrano chiaramente gli insegnanti, perché ho comunque qualcuno che si ci apprigga. Il suo quello sul sole, quello che ci hai mostrato da Emilio, no? Ce l'avevi su pennetta, il rap. Ah, è un rap, sì. No, ma chi l'è andato a guardare? Era più musicale che un corto di Zero. No, ma quello non era un corto, quello era una partecipazione a un concorso sull'energia, quello dell'Enel, Play Energy. E noi abbiamo fatto un rap, chiaramente con un filmato. Pure voi hanno fatto un rap. Quando 3 giorni fa ci hanno detto che eravamo in finale, abbiamo scritto un rap. E l'hanno già improvvisato tutto, hanno fatto la coreografia, sempre un po' che è mosso, un po' che è sguaiardino, e si chiama sempre Il Bambo, ne racconta con pochissime parole tutta la storia. E poi hanno fatto pure questo, sono venuti col cappellino, un gesto, no, una bella storia. Invece la storia del Re Crati, del fiume Crati, e Crati... Old River. Old River. Old River, quella aveva del turchese, in effetti. Che c'era anche una continuazione, no? Old River 2, Old certo. River 2. Ma li ho quei film. Li ho ritrovati, te li farò vedere qualche volta. Possiamo organizzare pure qua una proiezione. Da Prigliano. Da Prigliano, sì. No, all'epoca il film è stato proprio bello. No? Abbiamo tutto. Fra l'altro Old River sono tutti e due 15 minuti durano, perché mi sono dovuto tenere nei tempi. Una pizza in un proiettore, eh? O no? No, non è proiettore. No, per dire, si può organizzare, uno ci mangiamo una pizza qua e ci vediamo. Perché magari, capito, se sono così brevi non fai la serata la cosa, però tra di noi lo possiamo fare. Vabbè, sì. Maria. E intanto siamo ancora in diretta e abbiamo chiuso qui con questa cosa, sempre la transizione di fase per coessenza. Se tu mi dici, Mari, tu fai soprattutto questa cosa, forse ci orizzontiamo meglio. Sì, sì. No, ma in questi giorni ci vediamo e prendiamo le cartacce, che è una cosa che diciamo sempre, non facciamo mai. Infatti. Vai, te la devo. Vai. Grigio. Perché ho fatto solo il mercatino. Caldo. Non faccio niente. Sudore affumicato. Mercatino, laboratorio, giochi e mercatino. Case, fabbriche, case e palazzi. Nero lungo serpente. Attratto sul sole. Aspetta che ti chiedo questo. Vento forzato. Tu fremito proprio. Vento forzato. Velocità a facce. Verdastre. Verdastra dai finestrini. Verdastra. Sì, verdastra. Facce verdastra. Secondo me è faccia. Facce verdastre. Buio, luce. E dopo 1119 chilometri. 1119. Sì. Chilometri. Finalmente il grande turchese. Virgola. Finalmente il grande turchese, virgola. comunque non è per quanto è una cosa non è facile scrivere abbiamo reperto le aulette all'università e abbiamo pensato di avviare sì, il mio lavoro di sociologia, letteratura e però che no, ma tu sei il meglio, tu non lo io oppure sono tutti Paola sì, c'è la Paola si c'è la Paola si c'è la Paola e niente, mo ci siamo vittori ma questa cosa io, poi casomai ne parliamo meglio per lei. Se, perché visto che mo che quando con Stefani giro giro si conta con l'università, la presenza dell'università è interessante, perché un po' poi si è rivoluzione perché la cosa è senza un pranzo. Allora, due cose che sono possibili, ci parliamo di d'accordo, la cosa è interessante. Locale. A me piacerebbe subito fare una giornata, però anche molto più la zona,